Nel paese dei balocchi siamo tutti un poco sciocchi, ma importanza ciò non ha. Siamo sciocchi, siamo allocchi, siamo perlocchi, ma che fa? Nel paese dei balocchi siamo tutti un poco sciocchi, ma importanza ciò non ha. Siamo sciocchi, siamo allocchi, siamo perlocchi, ma che fa? Cemento, mi sento una molla, pronta a saltare come un mortaretto, pronta a brillare, a farsi fiamma, pronta a vampare. Sono in preda ad un delirio, fatto pugni col buon senso, sono pronto a saltare il capo della Banca d'Italia e sono pronto a saltarlo all'arma bianca, se solo tu maggiori che si comprime ma poi riprende la propria forma. Sono in preda ad un delirio, faccio cose senza senso, tipo andare